Coppa la rossa, mia coppa la rossa, con me che c'ho sta poca piglia spassa. Frunnella rude, pure spiga addossa, parla guardavo tu mai non te passa. Vattenna tu che la da priessa a priessa, te molle cartuscelle spicce spicce. Coppa la rosa, coppa de valluta, ma risca appuntamente si mancata. Sono venuta a roncia fanna come innamorata. Oggi rarilla e core diamanta, io ieri son mancata appuntamento. In Pisa, una cantanella e scena da casa. E pomeriggio con un pizzarrisa, una muratella mia rammanuvasa. Si ballerà vicina e da lontana, bella quanta vai e quanta viena. Bella quanta vai e quanta viena, si bella quanta cammina e tanta piena. A 15 anni a me fatti impazzire. Mamma è lattata, a me fatta scordare, a meglio partire alla